io sarò brevissimo perché innanzitutto parlando di intervento che è stato in italiano vorrei fare e poi anche per la dinamica di conquistato che ha preso il seminario. È veramente interessante, ho voluto molto della presentazione che ha fatto Aldo, perché permette di aggiungere un po' di difficoltà e complessità al problema di una voce, un concetto che Aldo e anch'io dobbiamo qui presentare, e cioè il caso spagnolo, dove come in Italia l'avvocato conta e conta molto, ma che come in Germania ed è un caso di diritto non codificato, anzi io direi ancora in Spagna non abbiamo un codice. E vi spiego. E anche un discorso più generale che interessa un segnale di storia dei concetti, perché appunto la cittadinanza è un concetto e rimane un concetto. Il codice no, è un concetto ma anche un libro. E questo tangibilità del codice fa che lo storico di questo concetto abbia veramente un problema iniziale per trovare e per individuare il suo campo di ricerca. Se noi prendiamo ad esempio, per finire con questo appunto storiografico, manuali, corsi di storia del diritto, persino monografie di storia giuridica dell'8-900, sembra che il problema è risolto con una storia delle costituzioni e una storia anche dei codici, codificazione, costituzione, sono normalmente si intendono come gli elementi rilevanti a fare un discorso storico-giuridico della nostra esperienza contemporanea. È assolutamente falso dal punto di vista costituzionale, perché in Spagna si può dire non c'è una storia, non può darsi una storia costituzionale ma solo una storia amministrativa. Se noi prendiamo le riviste dell'Ottocento mai troveremo un articolo, una discussione sulla Costituzione ma su altri temi che non possono essere individuati con questo modello. E lo stesso accade per il codice, anche in un senso, io direi, più forte. Se io vi dico che il codice non esiste, benché ci sia finalmente dal 1889 un libro chiamato così, Codice Civile, è una cosa innanzitutto da non stupirsi, almeno per i lettori di Italo Calvino, che conosciamo dell'assistenza di quel cavaliere inesistente appunto, ma che con forza di volontà e con credenze nella santa causa carolingia finisce per agire e combattere ai musulmani. In questo senso abbiamo anche con un po' di forza di volontà di tesoro un codice civile in Spagna, ma è un codice, una brevissima considerazione di questi aspetti tecnici rende assolutamente immaginaria la storiografia giuridica che fa del codice il fulcro, l'oggetto più cospicuo per la ricerca, è un codice che non merita quel nome di codice, non compie l'unità giuridica. Vi sapete che in Spagna ancora c'è una pluralità di diritti civili. È un codice anche che persino nella parte teoricamente che fin dall'inizio era promulgata come regime comune di tutta la Spagna, cioè il diritto matrimoniale, è assolutamente, almeno all'inizio, sussidiario del Concilio di Trento, dunque da solo per gli apostati è riservato il diritto matrimoniale incorporato dal codice, perché questa parte non ci serve. E poi è un codice dove manca una unità di un sistema di fonti. E dall'altro la relazione degli articoli 5 e 6 del codice civile mescola il problema dell'interpretazione e il problema del sistema di fonti, insomma dà regole di interpretazioni che poi la civilistica ha preso come il sistema di fondo. In questo caso mi sembra che sia molto chiaro, come esempio, la postazione che tu ci hai offerto. Ma sì, il codice non unifica nemmeno il sistema delle fonti, perché richiede a noi ancora oggi e fin dall'inizio è possibile la Cassazione per infrazione di dottrina legale. E che cosa è questa dottrina legale? All'inizio, quando parlo di inizio, parlo del 1838, in poi si intendeva persino dottrina legale, dottrina degli autori. Man mano, soprattutto dal 1855, con la nuova, con la legge di procedura civile, che non va chiamata nemmeno codice di procedura civile, che è questa tradizione spagnola, e la dottrina legale va identificata come la dottrina del Tribunale di Cassazione, che è il Tribunale Supremo. E ovviamente i giuristi dicono sempre che la giurisprudenza del Tribunale Supremo ha lo stesso valore, ha quasi valore di legge per l'effetto della particolare Cassazione che c'è in Spagna, che io, se non mi sbaglio, non ho visto mai da nessun'altra parte. Tutto sommato, questi risultati del diritto positivo ancora in vigore ci mettono davanti un concetto molto debole del codice, al punto di poter operare con la ipotesi di che il codice in Spagna è veramente inesistente. Il problema che uno storico dei concetti ha, e vorrei sottolineare che non sono un problema di fonti, è che qui da noi mancano quasi assolutamente, ad esempio, queste enciclopedie giuridiche dove si possono adoperare la tipica ricetta della storia dei concetti per studiare il lessico dell'epoca nelle opere dell'esicografia dell'epoca. Sono pochissime e sempre incompiute, dunque delle volte, perché il codice sia una delle prime voci del lessico, non ci servono tanto questi materiali. Detto tutto questo, io vorrei porre la proposta di assumere come concetto più operante di codice nella dottrina dell'Ottocento quello che è la sede tematica, dove, quando le poche pagine scritte che tematizzano il codice ci mostrano chi è, sono un concetto di procedura, un dibattito processuale. Quando si parla del codice in Spagna, dall'inizio, diciamo, un periodo di governo rappresentativo, dalla fine degli anni 30 in poi, sempre si parla, o il tema di dibattito è come fare il codice. Non tanto il contenuto, che va più o meno dato per scontato, ma come si fa il codice. E c'è ovviamente la classica contrapposizione tra la possibilità parlamentare e la possibilità di una commissione di tecnici per fare il codice. E sempre, simplifico al massimo, ma sempre che questa seconda possibilità, il codice non come un problema politico, non come un problema assolutamente del legislatore, ma come un problema dei tecnici che va assunto. Poi i tecnici non fanno il codice, ma comunque il modello di codice è una cosa molto legata alla professione giuridica. Ma io vorrei riproporre questa ipotesi ancora in un senso più forte. Se il concetto di codice è innanzitutto un concetto processuale di come fare il codice, vorrei riscattare questo concetto nel campo degli avvocati, perché gli avvocati sono sempre le persone che vanno a teatro, fare litigi, conoscere dei processi. E in effetti si trova, ad esempio, un articolo sul codice, uno dei pochissimi articoli sul codice, il cui contenuto è appunto se il codice deve essere fatto da una commissione tecnica o dal Parlamento. Va risolto ovviamente questo dibattito nel senso comune della formulazione tecnica del codice, ma l'articolo è presentato appunto come un allegato, una difesa davanti al giudice. Lo stesso articolo è come una metafora di un allegato di difesa, come erano redatti comunemente nella prassi di avvocatura. Qui si possono vedere diversi aspetti. Innanzitutto, ancora una volta, sottolineare questo aspetto dell'immaginario del giurista ottocentesco del divorzio o del doppio piano, da non confondere tra la politica e la giurisprudenza. Perché veramente poi il Parlamento, da un punto di vista statistico, ricerca sociologica, chi erano i diputati spagnoli nell'Ottocento? Quasi tutti erano avvocati. Ma comunque si fingeva che il Parlamento, almeno per fare i codici, era composto di le persone non adatte a conoscere leggi complesse come quelle dei codici, e così un organo politico non adatto alla redazione di un testo assolutamente tecnico. La mancanza dei codici, che rivela anche ad esempio il dizionario dell'Accademia della Lingua, fino al 1000, se non sbaglio, 1899, non si definisce il codice con queste note più caratteristiche di un testo omogeneo, un testo sistematico, con una unità legislativa, un'intenzione legislativa. La definizione tradizionale del codice è, di una parte, quella etimologica del codex latino, è più precisa del codex come libro di diritto, soprattutto il codex giustiniano. In tutto il secolo, codice, nella scarsa lessicografia che c'è, vuol dire una raccolta di legge. Com'è che è una specie più tecnica o più specifica di un testo più generale con un formato, una rilevatura particolare, appunto quello che noi intendiamo sempre per codice in un senso più largo. I giuristi, tranne quel dibattito assolutamente processualistico, individuano codici con i codici della tradizione giuridica di sempre, persino ci sono materie insegnate all'università, codici spagnoli. Questi codici spagnoli sono i codici storici, diciamo, compilazioni, le sette partite, persino il vecchio diritto visigodo tradotto e diffuso in romanzo castigliano del secolo XIII. Questi sono i codici. E questo fa che tutto il discorso del codice sia assolutamente mescolato con un antiquarismo, perché non è una ricerca storica, una tipica necessità anche di conoscere i dati minimi per agire in un mondo dove il diritto è un diritto di secolare, di fatto secolare. È ovvio che in una situazione di questo genere, dove non si arriva a fare un codice nemmeno nel 1889, che è la data dell'entrata in vigore del codice civile, il ruolo della giurisprudenza è decisivo. E perciò questa peculiare Cassazione che c'è in diritto spagnolo dove la dottrina, ma non intesa come dottrina della stessa Corte di Cassazione, ha lo stesso valore, se non di più, della legge. Dunque, una storia di questo concetto di codici ci porta necessariamente a una storia della Cassazione o ad una storia dei relatori come individui di più basso livello che operavano nei tribunali, una storia della motivazione delle sentenze e non assolutamente una storia del libro chiamato Codice, che finalmente esiste, ma con tantissime particolarità. Due parole solo per spiegare alcune di queste particolarità. D'una parte l'esistenza di uno Stato, nel senso forte e proprio del termine. In Spagna ancora oggi si assiste a fenomeni non comuni, come ad esempio una mancanza o fallimento, non so come formularlo, del potere sovrano in tema tributario. Ancora oggi ci sono certe regioni, ad esempio il Paese Basco, che con un regime tributario assolutamente diverso, pattizio con lo Stato. Questo è ancora più acuto dal punto di vista del diritto civile. Finché i giuristi, gli avvocati spagnoli, è una cosa che avviene molto tardamente nel secolo, si mettono d'accordo tramite diversi congressi che dal 1868 si organizzano, in un concetto di codici che non sia il concetto di codice come libro giuridico d'antico regime che opera lo largo di tutto il secolo. E d'accordo in un concetto debole, nel senso di redigere un'opera dove le diverse tradizioni giuridiche possono coesistere, il codice non si fa. Un intento di redazione del codice del 1851 fallì assolutamente perché incorporava l'idea unitaria di codice. Dal 68 in poi, e a questo serve una pallida evocazione della polemica tra Tibaudo e Savini, che non ha un contenuto specifico e che non è una cosa che interessi molto, ma che è come una intellettualizzazione dei problemi spagnoli che sono diversi del vigore e della presenza di una tradizione, di tradizioni giuridiche diverse. Dal 68 in poi, tenendo conto di questa diversità, gli avvocati accettano un concetto di codice non unificatore del tutto il diritto, che almeno ha il pregio della sistematicità, che permette di sbloccare una discussione che almeno dal 1820 va portata avanti con risultati non positivi. In questa apportazione finale, l'unico saldo positivo forse della discussione sul codice di sistematicità, ci sono almeno 5-6 libri giuridici dagli anni 30 agli stessi anni della votazione finale del codice, dove giuristi privati, avvocati, quasi tutti, fanno una nuova raccolta del materiale che loro ritengono in vigore, secolare, con citazioni di tutte le fonti, persino vecchie e con secoli, da secoli, con un sistema basato, non anche molto chiaramente, ma tendenzialmente basato al sistema del codice civile. Nella storiografia esistente, questi libri, questi cosiddetti codice spagnolo o persino codice civile spagnolo, sono considerati come progetti privati, ma non è un progetto privato di codice, è solo un'opera per avvocati dove con sistematicità si appronta un vademecum giuridico in un mondo dove ancora discute cose abbastanza incredibili, ad esempio. E quando l'Accademia della Storia fa un'edizione critica delle sette partite all'inizio del secolo, questa edizione non coincide in punti neuralgici per la prassi del diritto con l'edizione precedente conosciuta e utilizzata da sempre, che è del Cinquecento. La giurisprudenza del Tribunale di Cassazione deve scegliere tra il testo tradizionale, il testo con pretese critiche dell'Accademia della Storia, decide per il testo più tradizionale, dunque il testo del Cinquecento. O un altro esempio, quando la Corte di Cassazione in una sentenza del 1863, una sentenza in un caso di catalano, di diritto, diciamo, del catalano, un diritto di acquisto preferente era il punto discusso, diritto non esistente in Catalogna, ma sulla base del valore sussidiario del diritto canonico si intenta un ricorso di Cassazione citando il Levitico, dunque il Pentateuco, il nucleo più anziano di tutta la Bibbia, come legge non accettata dalla udienza, dal tribunale d'appello. E la Corte di Cassazione deve decidere se il Levitico è diritto vigente o non è diritto vigente, se va compreso o non va compreso nel diritto canonico. Dunque questi sono i problemi, penso io, solo per finire, i problemi che deve interessare uno storico della cultura giuridica spagnola dell'Ottocento, problemi nascosti con il codice testo, ma problemi che risalgono, penso, quando appunto l'approccio è l'approccio della storia dei concetti.